quali sono i confini della mente? Cerchiamo di stabilire una perfetta sintonia, un rapporto diretto, immediato, tra la mia mente e la tua mente. Ti aiuto a spogliarti di tuoi stati d'animo negativi. È necessario che tu ti senta bene, in perfetta forma, e per ottenere questa sensazione piacevole è sufficiente che tu ascolti la mia voce, che cerchi di attuare quello che io ti dico. Assumi una posizione comoda. Rilassati, distenditi. Adesso chiudi gli occhi e ascolta questa musica. Abbandonati alla musica. Lascia che entri in te. Senti la tua. Stai disteso, tranquillo. Inspira ed espira lentamente. Pensa al tuo colore preferito, immaginalo, cerca di vederlo. Ora provi una sensazione piacevole, sentendoti avvolto in questo colore, come se ti trovassi in un bozzolo, caldo. Un colore che ti dà protezione, sentilo attorno a te. Tu sei perfettamente calmo, perché nulla può scalfire la tua serenità. Inspira ed espira con calma, ed ecco che tutti i pensieri, le preoccupazioni si allontanano, si dileguano, non ti opprimono più, non ti appartengono più. Raggiungi la quiete, il silenzio dei pensieri. Positivo, perché tu sei sereno, tranquillo, sei libero, libero di affrontarla come vuoi, di plasmarla in un istante a tuo piacimento. Ti senti bene, perché sai che ogni tuo problema sarà immancabilmente risolto. Ascolta questa musica e lascia che ora entrino in te i pensieri positivi, le cose belle che la musica ti suggerisce.